sempre una musica vera che non smetterà mai di vibrare nell'aria. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati dal Tampillo. Ci sarà sempre una musica vera, bella a tutti ragazzi. Buongiorno anche in questo giorno, oggi siamo al 19 agosto, fa un bel po' caldo come sempre. Ma noi non ci fermiamo ragazzi, andiamo avanti con questa radio, con questa musica vera che va spinta con queste vibes. Oggi ragazzi vi ho preparato una puntata molto più tranquilla delle solite. Anzi, ho deciso di fare un tributo ad una band perché niente, ieri la stavamo sentendo, ho detto raga ma quanto cazzo è forte, cioè, questi non possono fare 40 canzoni di Cristo e passare inosservati. Cioè nel senso è gente che, cioè tutto quello che produce è di Cristo, cioè ma poi sembra tutto diverso, non è che fa una cosa fatta bene . E quindi ho detto mo domani ci faccio proprio la puntata. Sto parlando ragazzi di Marco Masini. Ha una carriera alle spalle assurda, tipo vaffanculo, bella stronza, cioè raga io devo fare la puntata per forza su di lui, quindi senza troppe altre ciance io direi di piazzarvi la canzone dell'ultimo album di Marco Masini, che in molti diranno che ha cambiato genere, ha cambiato stile. Io invece devo dire che secondo me che apprezzo molto il suo sforzo e quindi vi voglio piazzare una canzone dall'ultimo album. Power and money, but you are mortal. You know you cannot escape death, but immortality can be obtained. Can be obtained. Get your days worked up. Ovviamente ragazzi non è Marco Masini, come spero che molti di voi, se non tutti di voi, abbiano capito. Volevo farvi questo scherzetto. Comunque no ragazzi, loro si chiamano Chinese Men e non sono cinesi, ma sono francesi, sono tre DJ francesi ragazzi che hanno formato questo gruppo a Marsiglia nel 2004, quindi sono anche relativamente recenti. Loro sono IQ, Slidy e Z Matteo, quindi spero che questa informazione vi sia stata utile, ma la cosa importante di loro è che tanto collaborano con tantissima altra gente. Se non sapete chi sono, provo a farvelo scoprire io. Come dicevo, questo è comunque il mio ruolo da tampillo. Quindi, se voi, detto, voi state sicuramente dicendo: ma chi cazzo so questi? Questo vuole fare la puntata così, cioè, su agente strana, boh. E invece, raga, mo vi faccio, metto una canzone e vi faccio subito capire chi sono. C'avete Iliad voi? Maybe that night these three people were making history. But anyway, what I'm trying to tell you folks is, here we are. Shit. We're getting up. We're getting up. Chinese man, but what's up? Get up to get down, get up to get down, get up to get down, get up to get down, get up, get up, get up, get up, get down. Fresh coast. So active. What it is. Get up to get down. Get up, get out, you lazy lout. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Questa sicuramente l'avete sentita, raga, è stata la pubblicità di Iliad ed è una bomba. E niente, io sì, li ho scoperti quasi così, perché questa canzone sembra una bomba, l'ho shazammata dalla pubblicità di Iliad, mi è uscita questa gente, ho detto ok. E poi niente, raga, ho scoperto che so uno dei gruppi di musicisti più forti al mondo, ecco perché tutta la puntata è su di loro. La cosa per cui li ho scelti, ragazzi, è perché loro hanno quello che io cerco nella musica, ovvero la capacità di fare più stili. Cioè, per me, se tu dici no vabbè, ma io faccio il reggae, non so fare, non so, un'altra cosa, cioè no, sì, perché se tu sei un musicista non ci credo che hai studiato la musica e sai fare una cosa sola. Quindi poi, ma a parte quello, mi piace proprio chi riconcettualizza proprio il concetto della musica e la fa secondo i propri criteri, cioè non segue dei criteri tipo ah, c'è il ritornello, c'è questo genere, no, nell'album ci devono essere due canzoni di questo tipo, una di questo. Questi regà macinano. E vi dicevo, in poche parole, sono tre DJ francesi che collaborano con tantissima altra gente, sempre diversa, ecco perché pure vengono questi prodotti molto diversi. E quindi vi viene veramente difficile, ragazzi, riconoscere c'è uno stile unico, cioè c'è in realtà, però già ad esempio queste due canzoni, tra l'altro, che sono dello stesso album, già non sembrano troppo dello stesso stile, della stessa band. E niente, quindi vi volevo parlare un po' più di loro. Ad esempio la canzone che c'è dopo, no, vi volevo parlare di queste loro collaborazioni, appunto perché una cosa che fanno molto è una sono queste groove session, dove appunto si radunano tutti i musicisti, è una sorta di jam, cioè iniziano a suonare tra di loro e quando c'è una sorta di alchimia, cioè ovviamente non è, si inizia a suonare in maniera professionale e quindi e da lì escono degli album. Cioè loro si radunano, non è che hanno il concetto, fanno una canzone, poi si registrano la seconda, no. Si vedono, suonano 8 ore e da quelle 8 ore fanno uscire un album, due anche. E questo è uno stile, cioè uno strumento usato da molte band di questo livello, diciamo, perché appunto tu per poter fare una session da dove escono degli album necessariamente devi essere forte. E questa canzone che c'è dopo viene fuori proprio dalla loro prima groove session ed è stata utilizzata dalla Mercedes, se non mi sbaglio, come, sì, come campagna pubblicitaria, quindi non solo Iliad, in realtà loro, ragazzi, sono stati scoperti così. con questa canzone che la Mercedes ha usato per la pubblicità Loro Sono Esplosi. Ve la lascio. Lascio un po' qualcuna in coda, di stili e generi che toccano, cioè, nelle varie canzoni. Corazón, porque me muero de pena. kaboom. Back to the beat, y'all. So pay attention to the beat, to the beat, y'all. Bye. Questa era, regare, la canzone che faceva più da intro, ma solo per l'intro, perché la canzone più figa è quella che ho messa all'inizio, secondo me. Era giusto per far capire quanto cazzo erano forti. Khodorkovsky. This is the history of Chinese man. The Chinese man create the power to celebrate the four energies with music: physical, intellectual, emotional and sexual. Take your time, breathe, close your eyes and listen. Chiudi i tuoi occhi e ascolta. Questa invece, raga, che parte è una delle mie preferite. Chi mi conosce lo sa, io c'ho una malattia, raga, nello spagnolo, nelle canzoni, raga. Non lo so. Questa è una delle mie preferite proprio a livello di suono e quanto mi fa volare sta bene, diciamo, non a livello di tecnicismi. Ve la lascio, va. listen to them. Children of the night, what music they make. Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. But the main thing that they have all in common is fear. Just think about it. Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some icing on the cake. If you wanna rap free, you better find another way. Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You feeling more, but when they peep, you peep and you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradictive. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Read between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I'll listen to your story, but promise you ain't fooling me. Chinese Man, signori, spero che vi siano piaciuti. Vi ho portato un po' di canzoni varie di questa super super band. Intanto sotto parte l'ultima canzone, la canzone di chiusura di questi ragazzacci, insieme a Johnny Osborne, leggenda del reggae, e Taiwan MC, raga, è una persona con cui collaborano spesso. E ricordatevi che io vi lascio sempre tutte le canzoni sulla lista, sul sito. Quando andate a risentire la puntata c'è tutta la lista delle canzoni e in più il link proprio alla playlist che creo su Spotify di volta in volta. Quindi ragazzuoli, lasciamo spazio però alla music. We are the words and the power and sound. they play the music just around the town. They say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. This is the freedom music, music. Independence music, music. I beg you, free up the drum. They say, free up the bass. Free up the rhythm, make me nice up the place. Free up the words and the power and sound. I strictly play the music, I go around the town. They say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. This is the freedom music, music. Independence music, music. Stick it tight, tight, and the rhythm right. Questo è Taiwan MC, raga. Love life, take it easy, spread vibes, more love, no stress, do it our way, everything blessed. 10 years in the business, still independent. Who know here, who we style, who know here, nothing yet. Coming in every year, watch how we sweat. Chop on the bass, I mash it up, select, I want you pull it up. Feeling the vibes of the world, the family, the Chinese in the area. One come follow, we know we bust it fast, we're not ready yet. Back in the days, we listen reggae music on cassette. Nowadays, radio DJs, happy play it. Boots, we are the bands, we are the league, we are the stem. The all of we together, we are independent. We no bragger, we no boss, we are singer, we are toast. Freedom music is we are promote. I make a free up the drum, we say free up the bass. Free up the rhythm, make we nice up the place. Free up the words and the power and sound. I strictly play the music, I go round the town. They say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. This are the freedom music, music. Independence music, music. Cause only you can make it happen, only you can make it happen by yourself. Don't wait for nobody else. You can make it happen, only you can make it happen by yourself. Don't let them leave you by the shelf. Only you can make it happen, only you can make it one. Set a one a thing, a million one a plant farm. You can make it happen and the limit is the sky. Some of them want to stop you, tell them we try. Because the more they try to stop we use, the more we go harder. I know for them they want to see we cross the border. Ed eccoci qua ragazzi, alla fine di questa puntata, spero vi sia piaciuta anche quest'oggi. Vi lancio un bless sulla musica vera, cerchiamo sempre di coltivarla e spingerla. Loro secondo me ragazzi sono dei rappresentanti di questa musica vera, perché comunque sono moderni, sperimentano tanto e portano dei suoni nuovi, realmente, non come quelli tipo della trap, diciamo, vedi, è innovativo bro. Suona però come una scatola dei fagioli rotta dentro una pentola rotta, quindi comunque non hai fatto granché. Invece questi fanno tante tante cose. E vi dicevo, beccatevi le canzoni con Taiwan MC, perché sono spinte. Ma dei loro ragazzi potete ascoltare proprio a caso, mettere Chinese Man, casuale, sicuro, tempo 5-6 canzoni siete innamorati. E quindi ragazzi, mi sembrava giusto fargli un tributo. Io vi lascio, vi saluto e saluto tutti i ragazzi che mi seguono e tutti i ragazzi all'ascolto, il Gianluchino che c'ha la radio, il Mardoc, Stugolo, tutti quelli che volete raga, vi saluto tutti. E niente, come al solito ricordate di seguirmi, c'ho tutti i link, li trovate alla fine della puntata, li trovate sulla bio di Instagram, mi potete scrivere a me se volete gli adesivi, scrivetemi tutto quello che vi pare, insomma. Detto questo ragazzi, mi sembrava opportuno lasciarvi con la canzone dei Chinese Man più strana che ho sentito, perché questa è la rubrica, no? Quindi ragazzi, questa volta è davvero un saluto. Il Tampillo vi saluta, vi ringrazia e vi dice sempre: ci sarà sempre una musica vera, sta a noi pomparla. Bella raga. Et quelquefois même on la blâme. Yo man, this is the Chinese man Andrew, you know? Bonjour, it's Houston fam, I'm here to kick some balls. Alongside Chinese man, ready to iron on anybody hard. I got a pen to the paper, ready to ignite the booth. So you better get ready for the moment that I drop this one. I'ma raise the roof, so watch this now. Everybody said I can't kill this sound, who's offing now? Throw down your town. Sticking out boots, they bang it out and shout it loud, I'm proud to be here. I don't take shit for granted either. Believe to believe in yourself. You gotta set a game changer. I stand in the face of danger, and upon a penny one of them haters. Get gas to the venues, outrageous to the dive on stages. Take you back to the middle ages, where the war cry made you famous. And we all drop one in the backstage, man, and it goes something like this. We go blah! On for the manor with the man and my animals. Kinda radical with the flow that's credible. Top bangable to the gallon, infallible, bankable. Nearly done here, well hold a second, mate. If you wanna come and get it, never gonna stop it. Overtake it when the jungle make it boom, when I come and break it down. You're done now. Ripping for the ends where you at. Make it stand on the top of the map. We go. That's right, baby. We lock this one down for the track. To the crowd scream, yo, wheel it back. You go. I wanna go mash it up again. This a Chinese man and tamer. New star, in a man set me trainer. Hype, no snooze chats. It's the AK flow when I spray them bars. Better duck down low, you douchebags. They can't rap with the flow and let loose blood. Too mad when I gas, no new jacks. I spit so sick, it's like ooh man. Too many stars like Wu-Tang. I will pick them apart like food. On the mic, I am. Get box like cereal, going and cereal. Murderous flows in the picture like aerial. Too many rappers and not enough fights. I stay on my grizzle and stay on my grind. I got my own back, so big on my spine. Make these brothers stop running and picking the mics. Don't make me go nuts. I'm going online. Run them dumplings, don't make assumptions. Take off your head and leave rude boys stumbling. Man in the turtle or terrapin. No, I can do this sleeping. That's no gas, we slide on rhythm. No drifting car. Blows off road, get 4x4. Put your hands up in the air. Gun fingers in the sky. Yeah, we light them up with vibes. Chinese man, we dopey them with hype. Say, brah. C'est-à-dire que nous sommes légers, et l'on prétend que notre esprit est la cause initiale de cette légèreté. Il n'en est pas la cause, il en est la raison.